Sabato 6 settembre si terrà alle ore 10 a Cesenatico una grande manifestazione per la pace, per il cessate il fuoco immediato di tutti i conflitti, in particolare per la Palestina, per l'arrivo degli aiuti umanitari alla popolazione palestinese, per il rispetto dei diritti umanitari e per la solidarietà internazionale. Faremo una veleggiata di barche storiche a supporto della Global Sumud Flotilla e saremo quindi alle ore 10 sul Porto Canale, proprio nel fronte al comune in via Marino Moretti 5, con anche un laboratorio di barche di carta e di pace, e abbiamo già la conferma che tante imbarcazioni hanno dato la disponibilità, a partire dalle barche storiche del comune di Cesenatico e le barche del Museo della Marineria. Ora sappiamo anche che la motonave Ghibli sarà disponibile a caricare circa 200 persone per seguire la veleggiata, e ovviamente daremo la priorità a chi porterà delle barchette con messaggi di pace o le costruirà assieme a noi, e che potranno appunto essere insieme anche in mare in questo messaggio di pace, di fratellanza, e soprattutto con un messaggio molto diretto che dice: cessate il fuoco, aiuto umanitario alla popolazione palestinese e Palestina libera. Le associazioni promotrici sono CGL Forlì Cesena, ANPI di Cesenatico, l'ANPI provinciale, Lega Ambiente, Libera, Mani Rosse Antirazziste, e abbiamo il patrocinio del comune di Cesenatico, che tra l'altro ha collaborato moltissimo alla realizzazione di questo evento, e della provincia di Forlì Cesena. Siamo orgogliosi di questa iniziativa, sentiamo che stiamo dalla parte giusta della storia, vicino alle persone, per il rispetto dei diritti umanitari e diritto internazionale. Raggiungeteci a Cesenatico, saremo insieme in questo supporto alla Global Sumud Flotilla.